Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. I maltrattamenti erano all'ordine del giorno, pugni, schiaffi, strattoni e insulti ai pazienti portatori di handicap di una struttura sanitaria. 7 dipendenti della casa di cura Villa dei Fiori, di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, sono stati arrestati dai carabinieri. I maltrattamenti ai disabili fisici e mentali gravi venivano commessi durante il trasporto dei pazienti dalle rispettive abitazioni alla casa di cura. 10 ordinanze di custodia cautelare, una in carcere, 9 agli arresti domiciliari a carico di altrettanti operatori di una struttura sociosanitaria nella quale erano ricoverati ragazzini affetti da patologie mentali. Nel corso delle indagini che si sono sviluppate... Faccio subito una premessa. So che c'è una fetta del pubblico che giustamente vuole rilassarsi, divertirsi, sentir parlare di cose divertenti. A volte mi riesce pure a essere ameno, a essere scanzonato, a mostrare i paradossi, insomma a intrattenere in maniera piacevole. Oggi non è il caso che intrattenga in maniera piacevole, non perché debba dire cose che abbiano in sé un significato profondamente serio oppure triste oppure che faccia venire un blocco allo stomaco. Sì, vi ho fatto sentire quelle che sono le cronache di persone maltrattate, bistrattate, tolte e private della loro dignità in degli istituti dove vengono rinchiuse. Quelli che pensano che questo non è un problema che li tocchi hanno ragione, sono fortunati e hanno diritto a non essere assatanati dalla trasmissione che seguirà, possono tranquillamente oggi magari evitare di ascoltare, perché di questo voglio parlare. Ne ho parlato spesso, ne ho parlato ultimamente, ne riparlo oggi. Oggi è chiaro e noto, per me è una giornata particolare, ormai parte della mia vita personale, privata, è diventata pubblica. Non è stato per me facile farlo, non è allegro farlo, non mi facilita nulla nei miei impegni quotidiani farlo, ma serve perché molte altre persone che hanno il mio stesso problema, cioè hanno un figlio autistico, seguono quello che io dico, quello che io faccio e prendono coraggio per uscire allo scoperto, per fare gruppo, per cercare delle soluzioni, perché le soluzioni in fondo ci sono sempre. Oggi Tommy compie 18 anni, oggi non è più quel bambino autistico figlio di Nicoletti, oggi è il signor Tommy Nicoletti, un essere adulto che ha in teoria tutte le chance che ha un adulto qualsiasi di vivere la vita con un piccolo problema, è come un bambino e quindi non può andare per strada da solo. 800 24 00 24, chi vuole seguirmi mi segua, attenderò volentieri tutte le testimonianze, tutti i racconti di quelli che hanno a cuore questo tipo di problema, come gestire un figlio disabile adulto quando improvvisamente ti rendi conto che fra la sua vita e un possibile progetto di dignità esiste un ostacolo insormontabile. Melog. Cronache meridiane. È una legge che riguarda non solo tutte le famiglie con disabili gravi, riguarda tutti i disabili gravi, ma riguarda 15 milioni di italiani che hanno in qualche modo contatto con i disabili. Si liberano le persone dall'incubo che sarà dei miei figli, dei miei cari quando io non ci sarò più. Si crea un trust, cioè un fondo fatto dalle famiglie stesse, vincolato alla qualità della vita del proprio caro. Si fa un fondo pubblico, quindi lo Stato si assume tutta la responsabilità di aiutare chi non ce la fa. E qui diciamo in questa legge che i disabili gravi, anche quando avranno 65 anni, possono essere curati, aiutati, inseriti, avere un progetto di vita personalizzato che comprenda anche il fatto che posso continuare a vedere gli amici. Voi direte, perché non stai tranquillo? Sta sereno, vedi, lo Stato pensa a te. Mario Marazziti, presidente della Commissione Affari Sociali, annuncia la legge sul dopo di noi, ne abbiamo parlato una quindicina di giorni fa, siamo tutti contenti, tutti felici, la legge penserà ai nostri figli, quindi cosa possiamo fare? Andarcene in vacanza tranquilli, non preoccuparci più, sapere che il loro destino ultimo non sarà quello di finire in quei luoghi di reclusione di cui abbiamo notizia soltanto quando un magistrato decide di metterci dentro una telecamera di sorveglianza e si vede quello che si è sempre visto dalla storia dell'umanità nei luoghi di segregazione di quella fetta di umanità non utile, non efficiente e soprattutto attraversata, cosa più grave, dal diabolico senso di follia. La follia spaventa tutti, la follia non si gestisce, la follia è razionalità, la follia non dà dei punti comuni di riferimento alle persone che soltanto nelle pacate, condivise, non inquietanti idee trova delle ragioni di conforto e di esistenza. Roberto Speziale, buongiorno. Buongiorno. Roberto Speziale, presidente nazionale dell'ANFAS, anche lui ha un figlio disabile, quindi sa esattamente, anzi è passato prima di me e prima di molti che mi ascolteranno in questo problema. Ricordo che l'ANFAS Onlus è un'associazione nazionale di famiglie di persone con disabilità intellettiva e relazionale. Ci siamo sentiti noi 15 giorni fa cominciando a parlare di questa legge, poi un paio di giorni fa tu, Speziale, hai pubblicato, hai fatto circolare delle tue note molto precise, molto dettagliate sui punti su cui forse vorremmo qualche chiarimento. Vediamo di riassumerli e di capire. Intanto dico agli ascoltatori 800240024 qual è il senso profondo di smarrimento che avete provato anche voi quando un vostro figlio è diventato maggiorenne. Quindi improvvisamente dovete affrontare una serie di problemi. Primo problema fra tutti, vostro figlio, quale sarà la tutela che avrà quando voi non avrete più possibilità di stare accanto a lui tutto il giorno, di seguirlo in tutte le sue vicende? Chi se ne occuperà? Allora, Roberto, vediamo un po' di capire questa legge che viene presentata come la panacea per risolvere i nostri problemi, in realtà su quali punti bisognerebbe lavorare? Intanto auguri a Tommy Nicoletti per il suo 18° e per l'arrivo a un traguardo importante nella vita di tutti noi. E quindi la legge chiaramente deve essere migliorata, perché le famiglie non possono essere illuse e le persone con disabilità hanno il diritto ad avere garanzie reali. Deve essere migliorata soprattutto in alcuni aspetti. Primo fra questi, quello di non pensare che con questa legge si debbano finanziare i muri, nuove strutture, ma quello di creare percorsi di vita autonoma, di vita indipendente, di garantire a ogni persona di poter scegliere dove vivere, con chi vivere, come vuole la Convenzione. Beh, diciamo che piccoli. Nella sintesi che fa Mario Marazziti sembrava proprio questo, si parlava di trust, di progetti personalizzati, ti ricordi, ci siamo aperti il cuore quella mattina, poi l'abbiamo letta, abbiamo visto che c'è qualcosina forse da dire. Esatto, nei dettagli si annidano sempre, come dire, poi le sorprese, per questo ANFAS ha voluto fare un'analisi molto attenta. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto, se questa fosse la legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale domani mattina, come si applicherebbe? Cosa succederebbe? Succederebbe, per esempio, che per tutta la parte di famiglie che desiderano che il proprio figlio continui a vivere a casa propria, magari con un assistente personale e quant'altro, questa legge non sarebbe, così per come è scritta, come dire, funzionale a questo elemento. E come? C'era stata data assicurazione quel giorno che questa era una delle ipotesi assolutamente percorribili della legge. Ahimè, come dire, questi nostri politici ci abitano spesso a far sì che ci dicono che nelle leggi ci sono delle previsioni, ma poi nella pratica, quando quelle leggi cerchiamo di attuarle, c'è magari quella parolina in più, quel dettaglio in più che poi la burocrazia interpreta in modo proprio. Noi abbiamo presentato 10 emendamenti che sono assolutamente migliorativi, perché abbiamo voluto non stravolgere la legge, perché noi vogliamo che questa legge sul dopo di noi arrivi al traguardo, e quindi se si vanno a fare interventi, come dire, troppo profondi, rischia che poi si impantani e che finisca nel nulla. Beh, non vorrei, pensare che fosse la stessa storia della legge sull'autismo, che è una legge totalmente inutile. Come vedi, hanno suonato le trombe, le fanfare, i tamburi, ma è una legge che oggi possiamo attaccarla al muro con un quadretto e rimane lì. Il rischio c'è tutto se non vengono apportate delle opportune modifiche che rafforzino assolutamente la possibilità che ogni persona con disabilità in famiglia possa costruirsi durante noi il proprio progetto del dopo di noi. Poi Sergio, aspetta un attimo, abbiamo un ascoltatore, 800240024, scusate se sono transcian, ma c'è un ascoltatore, buongiorno Sergio. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Cos'è per lei il Dopo di Noi? Ma guardi, il Dopo di Noi è una bella cosa che ho sentito dai media, dagli organi di informazione, dalla radio, alla quale saremo anche personalmente, parlo, disposti a partecipare, sacrificando come lei che è papà di un disabile, tutto ciò che abbiamo perché questi ragazzi abbiano un futuro. Il problema che rilevo io è fondamentalmente questo, che a prescindere dai motivi tecnici e dalle possibilità di attivare una legge, attivare intendo renderla operativa, comunque per quanto è successo in questi istituti e in quello dove sta mio figlio. Suo figlio dove sta? Stava nell'istituto di Grottaferrata. Uno degli istituti, diciamo, sotto inchiesta. Di quelli che ogni tre giorni ne è fuori uno. Ecco, dico, bisognerebbe che ci fosse un comitato. Grottaferrata era l'istituto dei Camilliani, no? O sbaglio? Sì, esattamente. E suo figlio quanti anni ha? Mio figlio ha 14 anni, peraltro da noi era ritenuto ed è ancora ritenuto un istituto d'eccellenza. Si è verificato questo fatto perché? Perché non vengono attivati quegli strumenti per dar modo agli operatori qualificati, capaci, che sappiano cosa vuol dire la disabilità, come ha anticipato lei prima, cosa vuol dire stare vicino alla malattia. La malattia mentale, quanto è difficile, se ci mettono i giardinieri o gli spazzini, con tutto il rispetto, a fare questo lavoro, è un altro succede mestiere. Quello che succede. Quello che succede, come ha detto lei, negli istituti di segregazione, perché a quel momento non è più un istituto di cura, è un istituto di segregazione. Ma lei nel progetto, diciamo, del futuro di suo figlio, aveva considerato questa come una buona soluzione? Questa della legge? No, questa, diciamo, di mandarlo a Grottaferrata in quell'istituto. Per lei poteva essere una soluzione, esternamente le sembrava una soluzione accettabile? Mi sembrava accettabile anche perché viventi noi, essendo in salute, noi nostro figlio che lo prendiamo comunque tre giorni a settimana, lo curiamo, lo coccoliamo, lo amiamo come fanno tutti i genitori, poi lo riportiamo lì perché c'è un programma, c'è un progetto, c'è tutto. Ma dopo i fatti noti, delle foto di percosse, violenze, continuate a mandarlo lì oppure vi siete presi un momento di riflessione? Dottore, il progetto non è finito, sono stati rimossi queste bestie che facevano quello che facevano, adesso ci sono degli operatori, sono carini, sono bravi, sono pieni di paura perché si sentono sotto i riflettori e molti di loro, specialmente gli operatori, diciamo, tecnici, medici, terapeuti, sono delle nuove leve. Quindi lei sa bene che chi ha il pelo sullo stomaco che ci sta da tanti anni può diventare anche una bestia di insensibilità. Sì, ma voi non vi accorgevate di nulla, per capire, perché sembra che fosse stata una cosa chiusa, isolata, siccome è no, un fatto frequente. Guardi, il nostro figlio veniva a casa con dei lividi, con delle cose, e noi ci chiedevamo il perché, ci veniva risposto che era plausibile questo tra disabili, facevano questo. D'altronde nostro figlio, quando stava a casa, anche essendo un soggetto calmo, come tutti i ragazzi di questo mondo, giocava, sbatteva, faceva. Quando l'altro anno abbiamo visto dei comportamenti anomali, proprio veramente anomali, caratteriali e anche posturali, abbiamo intuito che ci fosse qualcosa sotto, anche perché fortunatamente mia moglie è medico, quindi poi per quel rapporto che hanno le madri con i figli, lei lo sa meglio di me, mio figlio con la gestualità, perché non parla, non comunica, ci raccontava quello che gli facevano, non mangiando con cucchiaio davanti alla bocca, rimanendo su una gamba sola per mezz'ora, camminando solo in ginocchio, se io mi avvicinavo per dargli un bacio come fa un genitore, si schermiva, si proteggeva. E anche adesso questo rapporto con me, siccome c'è una voce maschile, lei mi sente, è rimasto di questo tipo. Mio figlio adesso è traumatizzato e ha paura. Ma cosa vi dà sicurezza che fosse stato soltanto una sorta di interferenza, di sguido rispetto a una buona gestione? Perché come suo figlio tornava con i lividi, non è il solo, anche gli altri avevano la stessa impressione e l'avranno comunicato. Tornavano con le lesioni, dottore, tornavano con i reflessi del pronto soccorso, con le braccia rotte, con... Continua a mandare suo figlio in quel posto? Io non ce lo manderei manco morto, sinceramente. Dopo quello che è accaduto, perlomeno questo mi scusi, non voglio fare, ma voglio ma capirlo, capisco. Devo capirlo, sì, perché è una necessità, non avete altra alternativa, perché mi sembra che se succede qualcosa del genere, se tutti lo sapevate, tutti lo dicevate, e una direzione non poteva far finta questa cosa fosse passata così inosservata. È vero, hanno chiamato a un certo punto i carabinieri a mettere le telecamere, è vero, sono stati loro a chiamarli, ma non potevano farne a meno di intervenire a quel punto. E tutto il periodo precedente, possibile che nessuno se ne era accorto? No, no, dottore, non è così. Noi abbiamo fatto le nostre segnalazioni all'istituto verbalizzate e i genitori dei disabili che hanno avuto delle lesioni, delle cose più corpose, più importanti, più plausibili dal punto di vista legale, hanno sporto denuncia finché il giudice che si è occupato di questa cosa, perché hanno dei limiti anche i giudici, non ha rilevato gli elementi per poter cominciare un'indagine che avesse una profondità e un impatto come quello che è stato. L'indagine è stata fatta bene, hanno rilevato tutto. Adesso questo lì non possono più farlo, capito? Beh, i responsabili sono in qualche maniera sotto inchiesta? Assolutamente sì, c'è sequestro di persona, maltrattamento. No, ma i responsabili, cioè i responsabili dell'istituto, i direttori, chi governava questo istituto, dico, a parte i responsabili diretti. Dottore, ci andrà sotto inchiesta, guardi, di questo ne sono... Vabbè, non anticipiamo quello che è il lavoro dei giudici. Però Sergio ci dà una testimonianza reale. Non è che voglio adesso girare il coltello nella piaga del dolore, della sofferenza, perché già se ne è parlato troppo in termini spettacolari, però capite che non è proprio una cosa leggera pensare che un proprio figlio abbia come destino ultimo quello di finire in una struttura che comunque all'esterno rappresentava il fiorfiore dell'efficienza e poi in realtà, vedete, per tempi lunghi i genitori vedono arrivare i figli a casa con lesioni prima che si muova la macchina della giustizia, o perlomeno si muova intanto la prima fase di un'inchiesta, passa del tempo. 800 24 00 24, a tra un istante. Melog, cronache meridiane. Stiamo cercando di riassumere se possibile e di far comprendere a chi non gestisce il problema direttamente sulla propria carne quale possa essere il dilemma di chi ha un figlio disabile che compie la maggiore età. Da una parte non vede più possibilità, soprattutto nelle disabilità di tipo psichico e relazionale, di avere dei trattamenti mirati, specifici per il suo figlio, perché smette di essere autistico, diventa un paziente psichiatrico generico. Per i pazienti psichiatrici generici il destino è quello di finire delle strutture. Al momento, finché la famiglia può, a mezzi, a strumenti di sussistenza, può gestirlo la famiglia. Quando la famiglia scompare, nella migliore delle ipotesi, va in una struttura che viene chiamata fiore all'occhiello. Abbiamo appena sentito la testimonianza di un padre e di un figlio che stava in un fiore all'occhiello. Si può vivere tranquilli pensando che il proprio figlio avrà possibilità di vivere, visto che oggi va molto questo termine, in un petaloso fiore all'occhiello? Non lo so. Avvocato Riccardo Rossotto, buongiorno. Buongiorno. L'avvocato Rossotto è senior partner dello studio RIP Legal, assiste professionalmente progetti nel campo del sociale. In pratica, l'avvocato Rossotto è un professionista che ha messo a disposizione il suo talento, la sua esperienza professionale per studiare progetti creativi che vadano oltre, creino delle derive rispetto al destino che sembra quello di finire in una struttura. Vediamo se riusciamo a dare qualche spiegazione su quello che si potrebbe fare, intanto con le proprie forze, poi vediamo se corroborati anche da una legge. Io credo che responsabilmente dobbiamo porci il tema di dare una risposta adeguata al dopo di noi. E questa va affrontata, secondo me, secondo l'esperienza che ho maturato in questi anni, sotto due profili. Uno, di strumenti giuridici che garantiscano la continuità per il ragazzo rimasto orfano, di avere una erogazione di fondi che i genitori hanno destinato a lui e che però purtroppo sono drammaticamente scomparsi, e quindi il figlio si ritrova senza i genitori e con ovviamente un problema di gestione di questi fondi. Questi strumenti giuridici ci sono, incominciano tra l'altro a essere anche utilizzati nel nostro paese, e derivano da esperienze nel mondo anglosassone. Mi riferisco in particolare ai trust. I trust sono degli strumenti giuridici che servono proprio per blindare e secretare un patrimonio destinato a una specifica finalità, nel nostro caso il mantenimento del ragazzo disabile. Cioè la famiglia progetta, diciamo, io ho messo da parte questa cifra o ho questo tipo di risorse, voglio essere sicuro che comunque non ci mettano a mano parenti, fratelli, altre parti della famiglia, educatori, gestori, via dicendo, che queste cose vadano indirizzate a quello che io penso sia meglio per mio figlio. Uso un brutto questo termine che è il blindare, proprio per seguire il suo ragionamento, e cioè per essere certo io genitore che un domani che non ci fossi più questi soldi non potranno essere contaminati da nessuna volontà, li gestirà un trustee e li gestirà seguendo ed ottemperando quelle che sono le mie istruzioni che do oggi, e cioè un'erogazione tipo una rendita vita natural durante finché mio figlio vivrà e quindi potrà contare su questi fondi o sui redditi di questi fondi. Posso fare un attimo solo, scusi avvocato, Roberto Speziale che ci sta ascoltando, che ha studiato profondamente la legge, cosa dice la legge? Ah, è caduto Speziale, se lo riprendete. Voglio capire cosa dice la legge, perché la legge cita il trust, non so se l'avvocato ha avuto modo di vedere questa legge che adesso discuteranno, passerà al Senato. Cosa dice la legge su questo? La legge ipotizza proprio l'utilizzo di questi strumenti che per natura, essendo persone giuridiche e non persone fisiche, non possono morire e quindi sopravvivono a noi, per essere utilizzati proprio con la finalità di dare certezza e non contaminazione o rischi peggiori alla somma, di poter essere destinata esclusivamente al fine del mantenimento del ragazzo. Ecco, lo volevo capire adesso. Abbiamo recuperato Speziale, che ha studiato la legge, perché è qualcosa che vive sulla sua pelle. Te la riassumo, Speziale, poi mi dici se dico qualcosa di sbagliato. Quei ragazzi presi a calci in bocca e a sputi in faccia costano allo Stato qualcosa come 200-300 euro al giorno, se non sbaglio. La legge prevede che questa cifra, se dei genitori presentano un progetto plausibile, personalizzato e compatibile con il futuro dei propri figli, vadano a questo progetto? La legge prevede questo? Non lo prevede in modo esplicito. Sembrerebbe all'articolo 1, che è una cosa molto importante, che sia assolutamente, come dire, prioritario fare la deistituzionalizzazione. La deistituzionalizzazione significa esattamente questa roba qui, prendere le persone che attualmente vivono in istituto, in quelle condizioni disumane, e come dire, creare delle unità abitative che siano a dimensione familiare e quindi trasferire da realtà istituzionalizzanti alcune persone, quelle che hanno come requisiti caratteristiche, in altre tipologie di realtà. Però ti rendi conto, Speziale, parliamo in termini crudi, scusa, che fetta di business si toglie di mano a tutte le organizzazioni che su questo fanno il loro grande affare? Ma va tolto, cioè le persone con disabilità vanno tolte dalle mani di chi ne fa, come dire, carne da macello e oggetto di business, cioè sulla qualità di vita della persona non si fanno né guadagni né commercio. Su questo noi come associazione, come familiari... Anche perché Speziale, io con quella cifra ce lo mando a Hilton, mio figlio, a passare la vita. Cioè, infatti, stavo dicendo che il limite della legge qual è? Che esattamente non contempla la possibilità di riconvertire esattamente in termini di progetto individuale l'attuale risorsa. Quindi non c'è scritto nella legge questa cosa? No, esatto. Non è esattamente... Tanto è vero che noi siamo dell'avviso che è arrivato il punto, tutte le RSA, tutti gli istituti vanno chiusi, vanno riconvertiti, bisogna fare una legge specifica per la deistituzionalizzazione, che non è la legge di cui noi stiamo discutendo del dopo di noi, perché questa legge ha una platea di destinatari che sono esattamente quelli che si trovassero nella condizione di restare orfano, i cui genitori non fossero più in grado non di dare l'assistenza così come prevede attualmente la legge, ma che non fossero più in grado di garantire responsabilità genitoriali, che è una cosa ben diversa. E quindi in quel caso creare una condizione per cui in Italia nessuno di queste vergogne che sono queste RSA, che sono questi istituti dove all'interno si fanno tutte le cose di questo genere, esistano più, e che invece al loro posto ci siano o supporti domiciliari per chi crea le condizioni o ci sono le opportunità per vivere a casa propria, magari come assieme ad altre persone con e senza disabilità, o come dire, laddove queste condizioni non ci sono, comunque in strutture che riproducono la casa e la famiglia, dove siano perfettamente sempre dentro la componente del controllo familiare o delle fondazioni, delle associazioni, oltre a stiche, che come diceva l'avvocato Rousseau, esatto, e come persona giuridica possono garantire sempre in eterno, anche quando i genitori non ci saranno più, che, come dire, la qualità di vita o le risorse destinate siano esattamente funzionali alla persona. Fermo un attimo, Speziale, fermo un attimo. Avvocato Rossotto, a questo punto voglio capire, visto che fra le molteplici attività che professionalmente svolge, proprio anche quello di pensare dei modelli che abbiano una loro capacità di sopravvivenza al di là del bene comune, della carità, delle persone caritatevoli. Lei trova che sia possibile mettere su questo modello, che ancora non esiste, o perlomeno esiste in piccolissimi esempi? Lei ne può citare qualcuno, che ci sono già delle aziende che insomma hanno investito in piccole possibilità, franchising, chiamiamolo come vogliamo, di strumenti che permettono a ragazzi disabili di avere una vita dignitosa, ma molto di più, a non rimanere soltanto degli oggetti segregati e sorvegliati, ma di fare anche delle cose attive. Ecco. Sì, mi permetto di darle anche una buona notizia, nel senso che la struttura del trust che citavo prima e che potrebbe essere lo strumento giuridico per far sopravvivere ai genitori l'erogazione del mantenimento per la vita del ragazzo, oggi è allo studio da parte di alcuni grandi gruppi internazionali, e ci stiamo lavorando sopra, proprio per ottimizzare il costo, perché non tutti possono permettersi il costo di una struttura di trust, che non è alto, però comunque se lo riesco a ottimizzare tanto di guadagnato, di fare un fondo sociale che contenga tutti i trust aventi questo tipo di obiettivi. Sì, sennò sarebbe soltanto una cosa classista, soltanto chi ha soldi può fare il trust e gli altri s'arrangiano. Ecco, ma è proprio lì il punto, e cioè creando un fondo sociale con questa finalità potrebbero starci dentro 100, 200, 300 trust che a quel punto, potendo contare sui servizi centralizzati del fondo, avrebbero un costo sia di costituzione sia di mantenimento molto molto più interessante. Stiamo proprio arrivando a cercare di rispondere a quello che lei stava dicendo, cioè queste sono cose allora per quattro fortunati. E non può essere così. Un'altra domanda, Rossotto. Cerchiamo di allargarlo a tutti. Posso fare un'altra domanda? Allora, stiamo discutendo di una legge che adesso la calendarizzeranno al Senato, se ne parlerà, possiamo fare gli emendamenti e tutto. Una legge che, se va per la direzione per cui ci hanno promesso e non ci sono furbate come sta cominciando a farci capire Speziale, dovrebbe destinare i tanti soldi pubblici che si spendono per questi ragazzi per questo tipo di progetto. Se l'avvocato Rossotto con il suo staff è pronto a fornire il format, dire guarda, io posso mettere insieme un tot numero di famiglie e assicurargli a loro una gestione personalizzata, dignitosa e felice della vita, però i tanti soldi pubblici continuano ad alimentare questa sorta di manicomi e luoghi di tortura. Possono essere dirottati verso questo tipo di iniziativa? Devono essere dirottati? Allora, approfittiamo di questa nostra chiacchierata per lanciare proprio quest'idea, cioè lo studio di un format giuridico che ottimizzi sia i costi di istituzione dei singoli trust, sia della gestione successiva, in modo tale da poter offrire questo strumento a una platea molto più vasta e non soltanto quella dei fortunati che ne hanno il reddito. Io credo che questo sia possibile, e credo che sia possibile anche attraverso una virtuosa collaborazione pubblico-privato, perché se il pubblico potesse da parte sua fare anche una certa parte, dettando per esempio alcuni criteri di costituzione o il perimetro operativo del trust, poi su quel tipo di lancio di start-up normativo noi potremmo costruirci sopra uno strumento. Io posso dare un annuncio ufficiale a questo punto, visto che il 24 giugno stiamo già mettendo a punto l'idea di fare un grande convegno. Ci sarà l'avvocato Rossotto, ci sarà Roberto Speziale, sarà organizzato dall'amico Gassani, che abbiamo già sentito ieri, con i suoi avvocati matrimonialisti, che hanno detto mettiamo a disposizione le nostre risorse, non possiamo solo occuparci di divorzi, di corna e separazioni, per aiutare le famiglie a mettere a punto questo format. Noi il 24 giugno qui a Roma cercheremo di mettere a punto un format che sia in alternativa rispetto a questo sconcio. Ci sentiamo tra un istante. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presento Melog, cronache meridiane. .800 24 0024. Cosa abbiamo capito finora? Abbiamo capito finora che la possibilità alternativa rispetto alla segregazione c'è, però bisogna darsi da fare, bisogna studiare, bisogna mettere insieme le persone che abbiano competenze. Questa mattina abbiamo cercato di metterne qualcuna, dare a qualcuno la possibilità di esprimersi, lo faremo ancora di più, faremo un grande convegno su questo, però d'altro punto bisogna seguire con il pugnale tra i denti quelli che stanno facendo la legge. l'ennesima legge che serve soltanto a farsi belli e ammorbidire le coscienze. No, i soldi pubblici, e sono tanti, che vengono buttati in delle strutture lagre e fanno la fortuna, ma di chiunque, dei preti, delle cooperative e delle brave persone che se ne occupano, no, devono essere dirottati verso questo progetto, una volta che noi ne possiamo certificare e dimostrare l'efficacia. Antonio, buongiorno. Antonio, pronto? Veloce. Buongiorno. Sì. Salve, sono Antonio e chiamo dalla Campania. Praticamente io ho avuto una buona esperienza in una delle strutture citate che hanno avuto problemi. Non saprei nemmeno da dove incominciare. Se mi farei delle domande specifiche, io da parte mia, dalla mia esperienza, posso solo dire che sono dei lager a cielo aperto. Che sono? Tranquillamente. Sente? Dei lager a cielo aperto. Mi sintetizza lei ci ha lavorato, qual è il vero business? Cioè prendere soldi pubblici e pagare meno possibile gli operatori, quindi prendere operatori che non hanno qualifica. Sì, il problema è che praticamente io adesso mi posso sbilanciare perché sono stato certo. Licenziato dopo 15 anni. Allora dica esattamente che succedeva, dica esattamente giustamente. Cosa. Praticamente gli operatori purtroppo non è colpa loro perché vengono assunti tramite raccomandazioni. Beh, non è colpa loro un piffero, mi scusi, quando uno prende a calcio una persona è colpa sua. Sì, no, vabbè, scusando quelle persone che non hanno nemmeno, diciamo... Si va dal punto. Da dove vengono attinte le persone? Da quale bacino vengono attinte? Chi si occupa di queste persone? Allora, praticamente vengono assunte persone tramite amicizie politiche. Quindi queste persone rimangono sempre, diciamo, intoccabili. Perché poi ci sono anche da dire che peccano molto di personale queste strutture, però lo sanno. Il personale, sia la proprietà che li gestisce, e alla fine va bene a uno e va bene a un altro, è sempre a danno dei malati, perché poi deve finire che si funziona anche per farli lavorare. Noi non abbiamo visto niente dai filmati, quello è proprio zero quello che abbiamo visto. Allora, fermi un attimo Antonio. È un tema che abbiamo già toccato. Molte volte le persone vengono assunte a fare questi lavori, sono lavori che chiedono qualificazione, fanno parte del grande bacino delle prebende, dei familismi, delle persone da sistemare, e quando proprio non sai dove sistemarla una persona, la metti a occuparsi dei matti che tanto non protestano, quindi anche se li tratta male nessuno ha nulla da dire. Dottor Vitantonio Scagliusi ci ha scritto. Il dottor Vitantonio Scagliusi è un neuropsichiatra. Cosa deve dirci? Lo dica in pochi secondi però. Buongiorno dottor Nicoletti, sì. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ma semplicemente quello che, per cui le ho scritto è il fatto che non si investe sulla formazione. Non si investe sulla formazione alla relazione d'aiuto. Molto spesso negli ambiti sanitari, per la nostra esperienza, ci sono poche possibilità di formare adeguatamente i professionisti, i cosiddetti professionisti, che sono molto vicini all'utenza. Ma perché questo accade? Perché costerebbero di più formarli? Beh, probabilmente sì. E non ci sarebbe il margine, non ci sarebbe il margine di guadagno che ha chi gestisce questi centri? Forse mi unirei all'avvocato Russotto rispetto al fatto di poter vedere qualche soldo investito finalmente nello strumento della formazione per gli operatori, perché in tutti gli ambiti della psichiatria occorre formazione, soprattutto per le persone, come dicevo, che sono a diretto contatto con l'utenza. Poi lasciamo perdere i discorsi di cui si stava parlando, che giustamente lei dice la responsabilità è sempre individuale, e quando una persona non è capace, non è in grado di gestire la propria impulsività, le proprie istanze emotive, non può fare quel lavoro. Mi sembra chiaro, ci torneremo. Allora, avvocato Rossotto, vediamo se riusciamo a far capire ancora di meglio come potrebbe essere. Diamo intanto i margini esterni di questo format, in cui le persone che si occupano dei soggetti in realtà dovrebbero essere persone formate, ma secondo me c'è ampio margine se i denari pubblici che vengono buttati in queste strutture vengono buttati in un progetto. Le racconto un esempio concreto che penso possa rappresentare un punto di riferimento. Una case history, bravo. Torino, Cottolengo. Scuola del Cottolengo, 5 classi elementari, 3 medie. Un preside che è un don, che è don Andrea, monsignori, un don un po' particolare. Con sì, lo conosco, nemmeno sembra un prete, grazie a Dio. Esattamente, non volevo dirlo io. Che cosa studia? Studia un fenomeno che ormai sta diventando dirompente. Gli stanno aumentando le richieste di genitori che hanno dei figli disabili non solo di potersi iscrivere alla sua scuola, ma poi di tenerseli a scuola, perché quando dovessero superare l'esame di terza media, per queste famiglie sarebbe un problema avere il ragazzo a casa, perché lavorando e dovendo quindi provvedere al sostentamento della famiglia non saprebbero cosa farne. E la domanda drammatica, che è uno specchio della tragedia, è: me lo bocci perché almeno sta a scuola? Abbiamo tutti questo, conosciamo benissimo questo si problema. Si è inventato un format, don Andrea, e ci abbiamo ragionato insieme, che trovo brillante, perché è la dimostrazione che sforzandoci anche quel grande tema della dignità del lavoro, della dignità dell'autonomia e dell'indipendenza per questi ragazzi è forse quasi più importante di ogni altro aspetto. E cioè, vista la disabilità, affrontata lucidamente e scientificamente la modalità in cui si estrinseca questa disabilità, che tra l'altro è variegata per le varie forme di autismo, lui ha notato che, per esempio, mentre le varianze di ragionamento, e quindi non posso chiedere delle attività, di fargli fare delle attività che abbiano delle variabili, ma se gli faccio fare delle attività che abbiano un ordine preciso, sono addirittura più bravi di noi cosiddetti pseudonormali. E allora ha curiosato da persona intelligente e curiosa su quale poteva essere... Do valore alla stereotipia, che lo rassicura, è chiaro. Guarda, noi siamo ormai riempiti negli aeroporti, nelle caserme, negli ospedali, nelle scuole, dalle macchine distributrici di cibo, panini, ormai anche precotti, bevande e caffè, dalle macchine che distribuiscono questi prodotti. Il ricaricamento delle macchine vuotate dal nostro consumo è un lavoro ordinato, ripetitivo, che non richiede varianze. E allora don Andrea si è detto: ma perché non metto insieme i ragazzi in una cooperativa sociale, prendiamo in gestione, incominciamo dalle macchinette del Cottolengo, quelle che abbiamo qui nel nostro istituto, a provare a vedere se funziona, ma se funziona lo replichiamo in caserme, lo replichiamo nelle scuole, lo replichiamo nelle ospedali. Ma gli imprenditori come reagiscono quando voi proponete un progetto? Reagiscono bene, perché oggi cosa sta succedendo? La Lavazza, la Ferrero, i grandi produttori del food, del beverage, del caffè, riforniscono il gestore della macchina distributrice a un prezzo X. Ma quando hanno saputo che in realtà il gestore della macchina era il Cottolengo, e quindi era un istituto che si stava ponendo il problema dei lavori che potessero dare una dignità a questi ragazzi, il prezzo 100 è diminuito, ma perché la finalità sociale indubbiamente stimola l'imprenditore a dare una mano anche lui. E anche hanno degli sgravi, penso gli sgravi fiscali per loro, ma anche me. Non solo, guardi che c'è proprio un problema di responsabilità sociale. Abbiamo trovato generosità, passione e determinazione a darci una mano, al netto, se poi c'è una fiscalità agevolata, tanto di guadagnato. Potendo contare su un acquisto a prezzo ridotto, il margine che rimane alla cooperativa è un margine più interessante. Allora fermo, avvocato Sotto, la sigla ci porta via, non voglio interromperla. Questo è un argomento che sicuramente non lasceremo, visto che abbiamo questo impegno col nostro pubblico di occuparci anche della disabilità. Quindi un modello c'è, bisogna tenere forte il timone dritto nell'attenzione verso la legge e lavorare forte su un format che abbia fantasia e abbia dignità. Alla prossima!